Selamat Petang Semua. Buonasera a tutti. Dopo aver girato mezzo mondo, torniamo nel sud-est asiatico, immergendoci in un affascinante arcipelago dove la bellezza dei suoi paesaggi incanta gli occhi dei visitatori. Precisamente ci troviamo in Malesia, paese multiculturale ricco di contraddizioni. Ve ne elenchiamo alcuni. Lingua ufficiale, malese, ma ampiamente anche l'inglese. Religione, Islam. Territorio, divisa in due regioni, 3 territori federali e 13 stati. Insomma, un potpourri unico al mondo. La Malesia è una destinazione turistica popolare per la sua bellezza naturale, le sue spiagge, le sue foreste pluviali e la sua cultura diversificata. Proprio per questo è stata scelta come tappa per il nostro nuovo incontro. Ci siamo messi di tigna, e signori, fatevelo dire, non è stato facile. Ma alla fine le nostre ricerche ci hanno portato a dei buoni risultati. Sebbene il pane più consumato dalla popolazione è il roti canai, girelle di pane gustosissime con origini dall'India meridionale ma radicate in tutti i popoli del sud-est asiatico, abbiamo trovato quello che viene definito il sandwich malese per eccellenza, il roti john. Creato negli anni 60 a Singapore, altri non è che un'omelette cotta con macinato e arricchita da ketchup e maionese, racchiusa in un panino da hot dog. Piccola curiosità, il nome ha origini a Singapore, dove roti in malese significa pane, mentre John si riferisce a tutti gli occidentali che a quei tempi venivano chiamati così dai venditori ambulanti. Essendo un paese musulmano, la vendita di alcolici ne è vietata agli appartenenti di questa religione. In due stati invece è considerato reato. L'arte del mixology viene riscontrata maggiormente nella capitale Kuala Lumpur, città cosmopolita e di attrazione turistica, dove i barman si divertono a mixare i liquori di epoca coloniale come gin e whisky con i prodotti tipici, riflettendo un mix di tradizioni locali e gusti globali. Altra curiosità. Alcuni imbottigliatori locali, pur di produrre i propri liquori, hanno iniziato a farlo quasi illegalmente. In tutto questo marasma di contraddizioni noi abbiamo trovato una drink list molto interessante da proporvi. Abbiamo concordato con il proprietario del Canopy Rooftop Bar & Lounge un prezzo di 70 ringgit malesi per la cena. Il proverbio locale dice «Sedikit sedikit, la malama menja di bukit. Poco a poco, diventa una montagna». Grazie per l'ascolto.